البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. Buongiorno Palestina. Cade in questa settimana l'anniversario della Nakba, dall'arabo la catastrofe. Mentre il 15 maggio Israele celebra la proclamazione del suo Stato, in questa stessa data, nel 1948, avveniva l'espulsione violenta di oltre 800.000 palestinesi dalle loro case, dalle loro città e dai loro villaggi. Non possiamo dimenticare che dal 2010 la Knesset, il Parlamento israeliano, ha varato una legge che proibisce di manifestare pubblicamente lutto e dolore in questo giorno. Della Nakba parleremo con Wasim Damash, saggista, docente e traduttore. Wasim nasce in un campo profughi di Damasco, in Siria, nel 1948, l'anno della Nakba, da genitori palestinesi espulsi da Al-Lud, ora città israeliana. Arriva in Italia nel 1966 all'età di 18 anni. Qui studia e insegna per 20 anni dialettologia araba all'Università La Sapienza di Roma ed è poi docente di lingua e letteratura araba all'Università di Cagliari. Ora si occupa principalmente di traduzione letteraria e dialettologia araba e dirige a Roma le edizioni Q. Ha tradotto poesie di Mahmoud Darwish e Ibrahim Nasrallah. In fine trasmissione ci sarà un breve intervento di Abed Das della comunità palestinese di Firenze, che ci parlerà di quello che unisce da sempre, non solo in questo giorno, le comunità palestinesi, ovunque si trovino. Incontreremo Wasim in colloquio con Marisa e Claudio subito dopo il notiziario della settimana. Le notizie dalla Palestina di questa settimana. Cominciamo con la situazione riguardo alla pandemia del Covid, che naturalmente tiene banco in Palestina come nel resto del mondo. Per il momento fortunatamente l'impatto sanitario è piuttosto limitato, l'impatto economico invece è estremamente grave, visto il fatto che moltissime persone nei territori occupati come nei campi profughi vivono di lavori alla giornata e quindi sono privati di risorse economiche in questo periodo. Su The Electronic Intifada ci si sofferma in particolare sulla situazione nei campi profughi del Libano, dove praticamente dopo il primo caso di contagio accertato i campi sono stati sostanzialmente chiusi a chiave dal governo libanese e quindi vivono una situazione di blocco più stretta rispetto al resto della popolazione. A questo si aggiunge il fatto che il Libano sta attraversando una gravissima crisi economica, sostanzialmente il paese sta fallendo e la moneta libanese negli ultimi mesi si è fortemente svalutata, quindi non soltanto le persone hanno perso il lavoro, ma hanno perso anche il potere d'acquisto di quei pochi risparmi che potevano avere. A questo si aggiunge il fatto che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati è pure in grave crisi finanziaria a causa dei noti tagli fatti dall'amministrazione Trump al suo bilancio. E quindi la situazione è tutta nelle mani delle poche ONG che lavorano nei campi. È particolarmente forte la testimonianza di Khalidat Hussein, che è il presidente di Tadamon, una di queste ONG, quale afferma di aver sentito nella storia della guerra civile libanese l'odore della morte nei campi profughi, ma che è la prima volta che sente l'odore della fame. Per quanto riguarda Gaza, anche qui naturalmente c'è un'enorme preoccupazione per quello che potrebbe succedere in quella che è l'area più densamente popolata al mondo se il contagio si diffondesse. Su Arez, Gideon Levi accusa apertamente il governo israeliano di usare la situazione della pandemia come arma di ricatto nei confronti delle autorità di Hamas che governano la striscia, visto che il governo israeliano sta bloccando le attrezzature mediche che sarebbero necessarie per affrontare un'eventuale epidemia, nonostante che ci siano dei donatori come la Turchia che sarebbero pronti a finanziare queste attrezzature. Ad oggi nella striscia di Gaza sono disponibili meno di 100 respiratori per una popolazione di 2 milioni di persone. Il governo israeliano naturalmente smentisce di aver posto delle condizioni per sbloccare il passaggio di queste attrezzature, ma rimane il fatto che ancora queste attrezzature a Gaza non arrivano. Il governo israeliano approfitta anche della distrazione collettiva dovuta alla pandemia per accelerare i suoi progetti di colonizzazione della Cisgiordania. Proprio oggi, il 13 maggio, si è insediato il nuovo governo di unità nazionale, che è l'ennesimo governo Netanyahu, che ha messo fine ad un lungo scontro politico intorno alla figura di Netanyahu, ma ha messo insieme i suoi avversari, quindi il partito blu e bianco del generale Gantz e anche quello che resta del partito laburista, intorno ad un programma su cui sono tutti d'accordo, che è incentrato sull'incremento della colonizzazione nei territori occupati. Quindi la notizia che viene riportata da Michele Giorgio sul manifesto dell'8 maggio è l'approvazione di un piano per la costruzione di nuove 7.000 unità abitative nella colonia di Efrat. Si parla poi dell'imminenza dell'annuncio dell'annessione unilaterale di una parte consistente della Valle del Giordano. Si parla del 1 luglio come possibile data di questo annuncio, un'annessione che avverrebbe naturalmente con la benedizione dell'amministrazione Trump e finora con l'opposizione molto flebile dell'Unione Europea e delle altre potenze. Il governo israeliano continua poi a essere molto attivo anche nel cercare di reprimere le voci critiche nelle società occidentali. Queste pressioni ultimamente hanno trovato terreno fertile, in particolare in Germania, dove la conferenza dei rettori universitari ha adottato una definizione di antisemitismo che praticamente include anche le critiche al sionismo e allo Stato di Israele. E questo rende particolarmente complicato, ad esempio, promuovere le campagne di boicottaggio anche in ambito accademico, dove in teoria, la libertà di pensiero dovrebbe essere indiscussa. Middle East Eye, ci racconta che lo scorso 4 maggio almeno 52 attivisti e giornalisti filo-palestinesi si sono visti cancellare il proprio account Facebook. Questo naturalmente non è particolarmente sorprendente dal momento che è noto che Facebook collabora da molto tempo con le autorità israeliane e si stima che circa il 95% delle richieste di cancellazione di account fatte dal governo israeliano vengano accolte. Ed è anche ben noto che Facebook trae enormi profitti dallo sfruttamento dei dati dei propri utenti senza alcun rispetto per i loro diritti e la loro privacy. Forse è un po' più sorprendente il fatto che ancora molti giornalisti e molti attivisti anche di sinistra continuino ad usare questa piattaforma. Infine chiudiamo questa rassegna stampa con il ricordo di un grande attivista che è stato un amico della Palestina e che ha combattuto il razzismo e l'apartheid imbracciando le armi nel Sudafrica degli anni 60. Parliamo di Dennis Goldberg, che è stato uno dei compagni di Nelson Mandela, ed era un sudafricano bianco di origine ebraica, che fu catturato proprio insieme a Mandela e poi processato nel celebre processo Rivonia, dove fu anche lui condannato all'ergastolo. Sul sito amicizia italo-palestinese.org pubblichiamo un bel ricordo della sua figura, scritto da uno dei suoi compagni all'African National Congress, cioè Ronnie Kasrils, che è stato un ministro sudafricano negli anni 2000. In particolare viene raccontata la storia della sua liberazione dal carcere, che avvenne proprio grazie a degli attivisti israeliani che sfruttarono gli ottimi rapporti tra i due governi dell'apartheid, cioè Sudafrica e Israele negli anni Ottanta, e proprio per il fatto che lui era ebreo, riuscirono a convincere il governo sudafricano a liberarlo e a trasferirlo in Israele, sperando che lui si sarebbe poi stabilito, lì. E invece lui è arrivato in Israele e cominciò subito a criticare apertamente il governo israeliano per i suoi legami con il governo dell'apartheid sudafricano e naturalmente per le sue politiche nei confronti dei palestinesi, che lui appunto ha sempre equiparato a quelle dell'apartheid del Sudafrica. E infatti lui si trasferì immediatamente a Londra con la sua famiglia. E da lì poi ha continuato la sua lotta contro l'apartheid e infine è ritornato in Sudafrica, da dove ha anche contribuito alla nascita del movimento BDS ed è sempre stato un alfiere dei diritti dei palestinesi fino alla fine della sua vita. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Per maggiori informazioni più complete vi rimandiamo al sito amicizia-italo-palestinese.org e ai tanti altri siti come quello di Associapace Palestina, Zeitun.info, Invicta Palestina e molti altri che potete trovare navigando sul sito. Un breve intervallo musicale con Georges Cornuz e Mahmoud Darwish in Sajel Ana Arabi. Prendi nota, sono arabo. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل غاب فهل Riprendiamo ora la trasmissione parlando con Wasim, a cui chiediamo dalla Nakba, che sono passati 72 anni, perché comunque è così importante ricordarla? È importante ricordarla perché è ancora in atto. La Nakba non è un evento singolo, non è un momento storico. La data del 15 maggio è una data simbolo, ma la Nakba è un processo che è incominciato nel 48 in modo eclatante. Ma era già iniziato sotto traccia anche prima e co continua tuttora. E che cos'è la Nakba? Nakba vuol dire catastrofe. E ora sul termine catastrofe ci sono anche molti studi che dicono che cos'è. La guerra è una catastrofe. Ma anche il coronavirus oggi è una catastrofe, potrebbe diventare anche una catastrofe sociale, economica, eccetera. E questa catastrofe ha colpito la popolazione palestinese con la guerra, con una guerra con la polizia etnica che le formazioni militari sioniste create dalla potenza occupante della Palestina, la Gran Bretagna, hanno cominciato a partire dal dicembre 1947. Questa polizia etnica è consistita nella distruzione di cittadine, di centri abitati, in massacri per spingere la popolazione ad andarsene in una certa direzione o in un'altra. E il risultato è stata l'espulsione in massa di gran parte della popolazione palestinese dai territori che poi le milizie sioniste hanno occupato e dove hanno creato lo Stato di Israele. Ecco, Wasim, la Nakba del 48 e la pulizia etnica del 48 riguardò quest'area che tu hai citato ora, cioè quella che poi è stata occupata dallo Stato di Israele. E la popolazione palestinese si è andata a rifugiare nella quella che viene chiamata West Bank, insomma nella Cisgiordania non occupata. Però poi successivamente le cose sono andate continuando e anche in peggio, mi pare. Certo, allora quella che poi è diventata West Bank o la Palestina centrale ha accolto molti profughi dall'area costiera della Palestina centrale, cioè quello che oggi è Tel Aviv, eccetera. E mentre la Galilea, ad esempio, gli abitanti della Galilea sono finiti quasi tutti tra Libano e Siria. E si tratta oggi sono molto meno, però quelli registrati tra Siria e Libano superano il milione e quindi è una fetta consistente. Non dimentichiamo che la Galilea storicamente e culturalmente aveva una, come dire, le sue specificità molto molto importanti. A partire, intanto, c'era una alta concentrazione di riti cristiani diversi, cioè c'era tutto il panorama della cristianità orientale, il 70% degli abitanti erano cristiani e fatto importantissimo ancora in Galilea fino al 1948 si parlava la varietà di aramaico galileico, cioè la varietà locale dell'aramaico, la lingua che aveva parlato Gesù di Nazareth. Cioè, sono fatti abbastanza poco conosciuti, quindi continua ancora con l'occupazione, la Nakba continua ancora con l'occupazione della cosiddetta Cisgiordania, cioè quella parte di Palestina che non era stata occupata nel 48, che è stata occupata nel 67, come la striscia di Gaza, le alture del Golan e allora ancora il Sinai egiziano. Ma continua ancora oggi con le demolizioni delle case, con gli arresti, con è un processo che tende a trasformare il paese Palestina, cioè il paesaggio storico, culturale, preesistente, in qualcosa di nuovo, che è il paese Israele, dove una popolazione diversa, europea sostanzialmente, anche se poi la maggioranza non è europea, però è a guida politica, culturale, economica europea, cioè quella minoranza che ha creato lo Stato di Israele, no? Che sta prendendo il posto della popolazione indigena. Ecco, questo è avvenuto, questo è un processo continuo e preoccupante, ovviamente. Però ci sono stati anche dei momenti in questa situazione in cui appariva una possibilità di soluzione. Insomma, cioè, la domanda che ti faccio è: vi è stato mai un cosiddetto sionismo dal volto umano, tanto per usare un termine che conosciamo? Cioè un sionismo che a un certo punto ha cercato genuinamente una pace. E io adesso sto pensando a Sharet, o sto pensando anche a Rabin, insomma, prima che venisse ucciso. Che cosa ne pensi a questo proposito? Bisogna distinguere le persone dall'istituzione. Il sionismo come istituzione è una macchina complessa, come tutte le istituzioni, che porta avanti un progetto. All'interno di accanto e intorno e dentro le istituzioni ci sono delle persone che la pensano diversamente, ma il loro come dire, il loro impatto è decisamente minimo. Quindi parlare di persone ha poca importanza. Bisogna vedere che cos'è questo meccanismo che è stato creato e su quali basi ideologiche. Il sionismo è qualcosa di più complesso di un colonialismo di insediamento, perché vi è anche una componente di tipo nazionalistico e una componente di tipo religioso. Il sionismo nasce in Germania, cioè negli ambienti dell'elite tedesca, ebraica e cristiana ovviamente, non solo ebraica, e nasce nella seconda metà dell'Ottocento nell'ambito del dibattito di che cos'è il popolo, che cos'è la nazione, e si forma con l'idea di popolo-razza. Quindi questo è un aspetto poco conosciuto, ma che alcuni studiosi, anche israeliani attenti, hanno studiato. Ricordo il famoso libro di Shlomo Sand, no? L'invenzione del popolo ebraico, è importantissimo da studiare, da leggere. Quindi è qualcosa di più complesso di un processo coloniale tradizionale. Ecco, ma allora quello che ti preciso meglio la domanda, allora, voglio dire, date le premesse del sionismo, era inevitabile che le cose andassero a finire così come si stanno svolgendo adesso? Cioè che il sionismo, nato tutto sommato con idee anche innovatrici, modernizzatrici, in qualche maniera socialisteggianti anche, finisse poi in un regime di destra e che domina con l'uso della tortura, della carcerazione, che usa la violenza, cioè diciamo, la realtà di Israele oggi. Ecco, la domanda è: era inevitabile che le cose andassero a finire così? Purtroppo sì. Lo sapevano benissimo persone come ad esempio Albert Einstein oppure Hannah Arendt, che avevano descritto questo processo come qualcosa di molto simile al nazismo. Era inevitabile che finisse come finì, perché le premesse erano quelle. Non c'è dubbio che molte persone che hanno operato per esempio per conto del colonialismo francese o inglese in Africa, fossero spinte dalle migliori intenzioni di ammodernamento, di innovazione, ma in realtà hanno fatto un disastro, hanno commesso dei crimini contro l'umanità, non finire, dalla schiavitù di massa allo sfruttamento gli esiti li vediamo. L'Africa oggi è il risultato del colonialismo, è il risultato di questo. E stessa cosa è avvenuta in Palestina, ma su una scala più ridotta, sì, ma più intensiva. E quindi certo che doveva finire così, non poteva finire diversamente. No, del resto, tutti i processi coloniali, tutti, nessuno escluso, sono finiti ognuno con la sua specificità, ovviamente. Però, per esempio, in Nord America o in Australia o in altre parti ancora, è finita con l'eliminazione della popolazione indigena. Quindi il problema è risolto in questi termini. Altre parti, come ad esempio non so, in Indocina, in Siria, in Algeria, il colonialismo è stato semplicemente sconfitto e quindi ha lasciato, e la popolazione indigena è riuscita ad affermarsi autonomamente. E in altre situazioni ancora ci sono delle, come dire, formule di convivenza tra coloro che o i discendenti di coloro che hanno colonizzato e la popolazione autoctona, come è il caso del Sudafrica o del Messico o altre situazioni ancora. In Palestina il processo è in corso adesso. È in corso da 100 anni, e più particolarmente da 72-73 anni, ma è ancora in corso e gli esiti non sono scontati. Non sono Ecco. scontati perché l'obiettivo principale del colonialismo, l'eliminazione della popolazione indigena, non è riuscito, non è stato raggiunto. Senti, Wasim, volevo domandarti questo. Cioè, come hai detto te all'inizio, la Nakba continua. Non si è fermato appunto nel 1948 e diciamo che è iniziata ancora prima, come appunto dicevi te già nel 47, all'alba del giorno dopo della risoluzione 181 dell'ONU. Ecco, ti volevo domandare, tutto quello che poi noi abbiamo visto in questi decenni, la repressione di tutte le proteste, ricordo che commemorare la Nakba in Israele è illegale. Poi la pulizia etnica, come l'ha definita Alan Pape, l'espropriazione di case, villaggi, quindi il problema dei rifugiati che hanno diritto di ritorno con la risoluzione dell'ONU del 94 del 1948, che invece Israele proibisce appunto la conclusione di questo, diciamo, diritto, poi la militarizzazione della Cisgiordania e Gaza, l'incarcerazione di massa che abbiamo avuto in questi anni, la costruzione del muro di separazione, e potrei continuare. Ecco, mi domandavo, in tutto questo, le autorità palestinesi, vedi l'OLP, poi le altre formazioni, Al-Fatah, la nascita di Hamas, come hanno inciso? Sono state determinanti come reazione poi che ha avuto lo Stato di Israele o hanno avuto anche delle positività per la costruzione di un'identità palestinese? È una domanda molto articolata e la risposta non può essere semplificata né schematizzata. Allora, bisogna distinguere bene le varie fasi, i momenti, il momento storico in cui sono nate, sono state create le formazioni politico-militari palestinesi. Allora, Al-Fatah nasce negli anni 60, prima dell'occupazione della Cisgiordania e di Gaza, eccetera. E quindi nasce nell'ambiente dei palestinesi profughi, all'esterno quindi della Palestina, storica. Mentre Hamas, che è la forza, essendo Fatah, è la forza politica più importante ancora oggi, e stessa cosa vale per Hamas, sono le due più importanti, nasce in un altro momento storico. Anche se hanno le stesse radici ideologiche, un altro momento storico e in un altro territorio, nella striscia di Gaza, in seguito della cosiddetta intifada, cioè quella insurrezione di massa del 1987. Nasce in quel momento. Quindi, allora, i momenti sono diversi. Gli obiettivi iniziali di Fatah, che nasce fuori dal territorio palestinese, è quello di la liberazione della Palestina. Cosa dice agli inizi, negli anni 60, Fatah? Che la Palestina è stata occupata, c'è un colonialismo in Palestina, il colonialismo ha espulso i palestinesi, noi dobbiamo tornare a casa e convivere con chi c'è in questo momento. Quindi, come dire, i concetti, le definizioni sono molto semplici, ma molto chiare. Hanno questo pregio della chiarezza. Mentre nel momento in cui nasce Hamas, le definizioni che o meglio dire, l'idea, la visione di Fatah e quindi anche dell'OLP, perché poi c'è stata un'occupazione dell'OLP da parte di Fatah, no? Per cui coincidono come coincidono oggi, cioè non si può distinguere, era molto cambiata, no? Allora, che cosa diceva? Che bisognava creare uno Stato palestinese. Non si parla più di liberazione, ma della creazione dello Stato. Sono due concetti molto diversi. Nel momento in cui nasce Hamas, che cosa fa? Praticamente il manifesto costitutivo di Hamas riproduce cioè parola per parola, quello costitutivo di Fatah degli anni 60, ma subito dopo aderisce alle nuove idee di Fatah Olp, cioè l'idea dello Stato, eccetera. Per cui c'è una confusione in tutte e due le formazioni di cui i palestinesi pagano ovviamente le conseguenze, perché se non è chiaro quello che vuoi, e non sono chiari gli strumenti con i quali vuoi realizzare quello che vuoi, è chiaro che non riesci a fare nulla. Ecco, allora, ma mi pare che queste due visioni siano attualmente tutte e due tramontate, sia quella della liberazione totale, sia quella dei due stati. Un breve intervallo musicale con Al-Hada Al-Hardi su questa terra di Mohammed Darwish e il trio Jubran. الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايل وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة che ti ha fatto prima Claudio. Ma le due sono tramontate le due ipotesi su cui, di cui si è parlato prima, sia quella del diciamo della sparizione dello Stato di Israele, ipotesi iniziali della lotta dei palestinesi, sia quella dei due stati. Tutte e due queste ormai non hanno solamente dei sostegni formali. L'Unione Europea ogni tanto parla ancora dei due stati, ma non ci crede, e così nessuno ci crede. Il cosiddetto processo di pace è tramontato, si apre attualmente una situazione nuova, brutta, ma nuova. Ecco, in questa situazione abbiamo sicuramente un fatto, che Israele ha gettato la maschera e questo comporta una maggiore consapevolezza e un obbligo anche di vedere le cose come stanno da parte di molti dei nostri politici e da parte di molti dei nostri partiti e delle nostre formazioni. Sì, diciamo che nessuna delle soluzioni era fattibile per il semplice fatto che il problema in Palestina è stato creato per non essere risolto, cioè non è risolvibile. Allora noi non dobbiamo pensare a soluzioni impossibili, dobbiamo guardare alla realtà dei fatti. Qual è la realtà oggi? C'è una potenza occupante, che è Israele, sostenuta da grosso modo dai paesi aderenti alla NATO, cioè dagli Stati Uniti e dagli altri paesi che sostengono la politica americana nel Medio Oriente per i loro interessi economici, ma anche interessi strategici, eccetera. E dall'altra esiste una situazione all'interno dei territori controllati dallo Stato di Israele, sia che questi territori abitati a maggioranza ebraico-europea o ebraico-orientale o palestinese, in questi territori è presente uno Stato unico. Questo Stato unico pratica una politica di apartheid c'è una come la chiamano alcuni studiosi israeliani, c'è una etnocrazia, uno Stato che si comporta con i gruppi sociali a seconda della loro gerarchia etnica. In fondo alla scala ci sono i palestinesi, poi ci sono su un gradino superiore gli ebrei orientali o più precisamente gli ebrei arabi o gli arabi di religione ebraica E poi un gradino più in alto ci sono gli ebrei sefarditi e poi in cima alla piramide ci sono gli ashkenaziti, cioè gli ebrei europei dell'Europa centrale e orientale. E questo è il, allora, in questa situazione, qual è la via d'uscita? La via d'uscita è semplicemente lo smantellamento dei meccanismi dell'apartheid, di questo Stato che crea una situazione. Certamente non è una questione facile, perché questa struttura è una struttura anche militare, ma è una struttura economico-finanziaria. La produzione dei sistemi securitari, che sono diversi da quelli militari, è una questione che riguarda non solo Israele, non riguarda l'economia israeliana, riguarda il mondo intero. E così l'industria bellica, eccetera, eccetera. Non dimentichiamo anche che Israele è una potenza nucleare che ha centinaia, si dice che ne abbia solo 220 testate nucleari, ma non si sa ovviamente il numero. E quindi sappiamo che è una struttura molto complessa, che è una situazione difficile, però i dati reali sul territorio sono questi: ci sono all'incirca 6 milioni di israeliani ebrei e ci sono un po' più di 6 milioni di palestinesi nel territorio che va dal mare Mediterraneo al fiume Giordano. In questo territorio, e questa popolazione di circa 12 milioni e mezzo, 13 milioni di abitanti, deve trovare un modo di convivere. È l'unica via di soluzione, non esistono altre soluzioni. Per convivere bisogna che prima di tutto bisogna eliminare la discriminazione. Eliminare la discriminazione significa smantellare questo sistema, semplicemente. Ascolta, e per quanto riguarda l'ultima notizia, la decisione fatta dal governo israeliano della annessione della Valle del Giordano, dell'area C, da farsi il 10 luglio prossimo. Ecco, secondo te a cosa può portare questa annessione rispetto al quadro di cui si parlava? Un diverso apartheid o che cosa? Perché la Valle del Giordano adesso in mano a chi? Sempre in mano al governo israeliano, più precisamente all'esercito israeliano. È stata praticamente ripulita etnicamente, cioè non ci sono più palestinesi, se non una piccola minoranza, ed è quasi tutta zona militare chiusa, con alcune colonie. Quindi un'annessione di fatto esiste già. Ora, l'annessione formale cosa cambia? Non cambia nulla in realtà. Non vedo questo come un fattore importante, perché se noi guardiamo con l'ottica delle possibili soluzioni negoziali, secondo il sistema, i palestinesi, gli israeliani devono parlarsi, questo non porta da nessuna parte, ovviamente. Invece, se noi guardiamo i fatti sul terreno, dicono che c'è un sistema di discriminazione razziale ed è un sistema che non va bene né agli uni né agli altri, va bene a una piccolissima minoranza. Questa piccolissima minoranza è costituita da un massimo del 2% della popolazione israeliana, cioè coloro che detengono i capitali, quelli che fanno funzionare un sistema a loro esclusivo interesse, ma è un interesse non delle famiglie che stanno fisicamente lì, no, è un interesse delle multinazionali che gestiscono questa situazione. Allora, sì, certamente, Wassim, però teniamo conto che Netanyahu riesce ad avere sempre una grande maggioranza, perché è molto bravo e perché sa gestire bene non solo la sua immagine, ma anche in generale la sua politica. Ma non solo, Scusa, ma attraverso anche. il fascismo non aveva una adesione di massa in Italia? Hitler non è salito al potere con le elezioni? Certo. Cosa vuol dire? Che in questo momento, siccome sembra vincente la struttura sionista, sembra vincente, allora c'è un'adesione da parte della maggioranza degli israeliani, ma questo può cambiare da un momento all'altro. Ecco, tu parlavi dell'apartheid prima. Ecco, l'apartheid è il modello perché Israele attualmente sta esportando il suo modo di governare, cioè lo propone la legittimazione della tortura e della carcerazione, la non sottoscrizione del trattato di proliferazione nucleare, il rifiuto del diritto internazionale, la delegittimazione dell'ONU. Questi sono tutti valori o disvalori che Israele sta proponendo e che viene sostenuta dall'amministrazione Trump, cioè in un quadro di post-democrazia cosiddetta, cioè di diminuzione della democrazia. Israele attualmente, vedevo un rapporto ultimamente, veniva classificata tra le cosiddette democrazie in via di degrado. E propone, ripeto, il suo modello anche agli altri. Ecco, in questo senso dico che Israele ha gettato la maschera, nel senso che questa sua realtà viene percepita in modo crescente da parte, per esempio, da parte della sinistra italiana, da parte di pezzi della sinistra italiana che una volta erano blandamente sionisti e che oggi sono decisamente antisionisti. Ecco, questa nuova consapevolezza è la cosa che in qualche maniera ci dà una certa fiducia nell'avvenire che le cose possano perlomeno essere chiarite e combattute. Che cosa ne pensi a proposito? Sono assolutamente d'accordo. Certamente c'è una percezione diversa, ovviamente stiamo parlando di una elite istruita, quindi non parliamo dell'opinione pubblica in generale, ma di una parte dell'opinione pubblica di sinistra che è attenta a quello che avviene attorno a sé e nel mondo. Guarda, secondo me non è solamente un'elite, c'è anche un sentimento abbastanza diffuso di fastidio nei confronti di Israele. Io almeno questo lo percepisco. Non so se lo percepisci anche te o se sia una sensazione solamente di alcuni, però ora si sente sempre più dire: ma questi israeliani stanno facendo ai palestinesi la stessa cosa che hanno fatto i nazisti agli ebrei. Questa sensazione di fastidio e di prendere le distanze da Israele è una sensazione che ritengo diffusa e non Io solamente in Italia, quindi. questo non lo so, spero di sì, che ci sia la percezione della gravità della situazione, della gravità anche della diffusione, come dicevi tu, del modello israeliano, che è una cosa estremamente grave che riguarda tutti, certamente. Ma io spero che ci sia questa percezione, non lo so se esiste. Dunque, io credo che siamo un po' alla conclusione della nostra trasmissione. Senti, Wasim, io volevo ricordare però in conclusione una figura di una persona che forse tu hai conosciuto risiedendo a Cagliari, tu insegnavi a Cagliari, no? E che è il dottor Nabil Kheir. Lo voglio ricordare, è un medico di cui abbiamo dato annuncio anche nella nostra rassegna stampa, che è un medico palestinese che è morto di coronavirus. Tu l'hai conosciuto? Sì, certamente ho conosciuto Nabil, l'ho conosciuto da moltissimi anni fa, Lui è morto facendo il proprio dovere di medico, stato una persona che ha, come dire, fedele ai suoi principi, alla fratellanza, alla solidarietà umana, non si è ritirato davanti al coronavirus. È stato purtroppo uno dei primi colpiti. Vorrei anche dire che ci sono tra i molti medici, molto personale medico colpito, molti stranieri. E in questo momento parlo solo dei palestinesi, ci sono due medici palestinesi, uno a Pavia e l'altro a Pescara, che sono sotto cura intensiva, insomma, che sono stati colpiti facendo il loro mestiere, il loro dovere di medico. Ecco, bisogna ricordarsi anche di loro, chiaramente. Ah, ti ringrazio di questa notizia. Non so se abbiamo ancora del tempo, ce lo dice la nostra regista, se no ci salutiamo, e se tu hai ancora qualche cosa che vuoi dirci, naturalmente un minuto non ce lo nega nessuno. Sì, ben volentieri. Io ringrazio di questa opportunità. Io spero che la Nakba sia ricordata non solo in occasione della ricorrenza della data simbolo della Nakba, che è la creazione dello Stato di Israele, ma sia ricordata tutti i giorni, perché è un processo che riguarda tutti, non soltanto i palestinesi. Io sono sicuro, sono convinto che quello che è avvenuto in Iraq, quello che è avvenuto in Siria, quello che continua ad avvenire in altre parti del mondo arabo, è strettamente legato con quanto è avvenuto in Palestina e con il conflitto che è stato generato, è stato creato in quella parte del mondo, e i riflessi di questa situazione, per esempio della situazione siriana e irachena, sono dappertutto, anche in Italia, anche in Europa, e quindi è una questione che riguarda tutti, che dobbiamo ricordare continuamente, dobbiamo in qualche modo stare attenti ai processi degenerativi che comporta, e proteggersi da questi processi. Bene, allora ti ringraziamo molto di questa tua disponibilità e questa tua intervista, e ti salutiamo, Wasim, e speriamo in una prossima occasione. Prima di concludere vogliamo mandare un saluto e un augurio alle comunità palestinesi. A questo proposito ci colleghiamo con Abed Das della comunità palestinese di Firenze. Salve Abed, venerdì prossimo è il 15 maggio, ricorrenza della Nakba. Quando si parla di Nakba, tu ricorderai molto meglio di noi tutti, si parla dell'espulsione violenta di 800.000 palestinesi avvenuta nel 1948. A questo proposito vorrei chiederti un tuo parere riguardo alla ormai certa annessione della Valle del Giordano, argomento di questi giorni. Wasim Damash, intervistato poche ore fa, ci ha detto che questa annessione sarà solo un atto formale, perché il territorio è già controllato militarmente e che quindi non cambierà niente. Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto, intervistata invece pochi giorni fa, a questo proposito pone la questione sul fatto che il cuore vero della questione palestinese è il diritto al ritorno, e se il territorio si restringe, questo diritto sembra svanire. La domanda appunto è questa: qual è il tuo pensiero? Come leggi questa ennesima aggressione israeliana sul territorio? Innanzitutto buonasera a tutti, voglio salutare i nostri amici e compagni che ci ascoltano E grazie per questa possibilità di questa intervista che ci insomma che ci date per poter insomma arrivare ai nostri compagni per esprimere la nostra opinione in questo momento, questo anniversario tragico della nostra Nakba palestinese. Venendo alla tua domanda, Gianna, io dico è giusto quello che ha detto il compagno Wassim e la compagna, però io la vedo anche che questa è vero, ormai tutta la Palestina intera è sotto un'occupazione. Inutile parlando di un'autorità nazionale palestinese. Se il nostro presidente non può uscire dal suo ufficio senza un permesso. Però ora lo Stato di Israele, appoggiato dall'America, dagli americani, se vanno veramente applicare quello che stanno pensando di fare, e vuol dire assolutamente dobbiamo dimenticare di parlare di un Palestina e di un Stato palestinese. È vero, Israele ora che occupa le valli del Giordano, occupa tutta la Palestina, però una cosa diciamo sì che è formale, però se loro la vanno a prendere, noi ci lasciano praticamente, danno l'ultimo colpo di grazia a questo sogno nostro palestinese. Il sogno di due stati e due Certo, popoli. certo, certo. Grazie Abed della risposta che insomma, non molto diciamo ottimistica, ma purtroppo la realtà è questa. A questo punto ti chiedo, negli anni passati, nella data del 15 maggio, ci trovavamo tutti in piazza. Quest'anno la comunità palestinese riesce ugualmente a stabilire dei momenti di socialità e di comunicazione per questa ricorrenza, nonostante le restrizioni appunto del coronavirus? E purtroppo quest'anno è un anno che aggiunge alla tristezza di questo anniversario della nostra Nakba. Viviamo un altro momento così triste, che è questa pandemia che ci impedisce di uscire e di poter, insomma, ecco, manifestare la solidarietà con i palestinesi e con il mio popolo. Noi palestinesi siamo abituati anche all'interno della Palestina, nella Palestina storica, ci siamo abituati sempre in questo giorno dei nostri palestinesi che sono rimasti anche a Jaffa, a Acca, a Haifa, che andavano anche questo giorno, portavano i fiori, andavano nelle villaggi che sono di quello che è rimasto dei villaggi della Palestina, dei loro villaggi. Mangiavano, cantavano, ballavano, portavano i fiori sul cimitero di quelli che sono rimasti, delle nostre, insomma, il mio popolo, insomma, di quella gente che è rimasta ancora di là. E quest'anno purtroppo noi non lo possiamo fare nulla di tutto questo, sicché noi ora tutti quasi palestinesi cerchiamo di ricordare questo anniversario in un modo nel massimo possibile, insomma, di starci in casa a raccontare ai nostri figli, a collegarci con dei vicini che sono rimasti profughi, che ormai sono, come sapete benissimo, che i profughi ormai rappresentano quasi il 2/3 del popolo palestinese, che sono sparsi in tutto il mondo per via della Nakba. Basta prendere un esempio: il 70% della striscia di Gaza, della popolazione di striscia di Gaza, che vive da quasi 15-14 anni sotto un assedio vergognoso, che sono profughi palestinesi. Sicché si cerca di metterci in contatto tutti insieme, di raccontare ai nostri figli, nel disegno, nel parlare con loro del passato, ognuno la sua esperienza, i nostri nonni, il che vuol dire questo chiave che ha messo attaccato sul muro di tutti i nostri appartamenti. Il far disegnare figli del passato che ha subito il nonno di questi, insomma, di questi palestinesi, le nostre case, il nostro futuro, sì, perché no? Perché noi siamo ottimisti, perché siamo sicuri che un giorno torneremo nelle nostre terre. È vero, sembra ora impossibile, sembra così difficile, sembra tutto buio, invece noi sempre abbiamo visto in fondo al tunnel, abbiamo visto un sbiraglio, una fiammettina che ci porta, insomma, che ci porta dritti tutti noi, insieme a noi, tutti gli uomini, donne, liberi in questo mondo, che ci porta verso la Palestina. Perciò noi, cioè, il giorno della Nakba, ognuno al suo modo si cerca, insomma, di ricordare questo, perché è una cosa, questo anniversario, perché è una cosa impossibile di non poter ricordare tutti i giorni, per l'appunto. Non è che noi le viviamo solo quel giorno della Nakba, perché fa il conto sono più di 10 milioni ormai, ora possiamo dire, di profughi che vivono e aspettano il loro sogno di tornarci nelle loro case, che vivono tutti i giorni una Nakba. La Nakba sì che è un giorno quando sono stati cacciati i palestinesi dalle loro della loro terra, hanno distrutto praticamente tutti i loro villaggi, le loro città. Basta ricordarci quando noi si parla di 550 villaggi distrutti, vita intera di un popolo, di una storia cancellata. Sicché tutta questa gente, tutti questi profughi che vivono nelle diaspora all'interno della Cisgiordania, che ancora sono il 2/3 di loro, sono profughi che vivono praticamente anche in Cisgiordania. Tutti per loro, nella condizione che loro vivono, tutti i giorni vivono a Nakba. Perciò tutti i giorni i nostri figli festeggiano, posso dire anche questo, e sognano il loro ritorno nella loro casa, nella loro Palestina. E allora noi qui a Firenze cerchiamo come minimo di portare i nostri figli, di raccontarli, per farli sempre ricordare che la provenienza loro, le loro origini, perché la Palestina non dobbiamo mai dimenticare, e nessuno può dimenticare la Palestina, perché è una giustizia così, nessuno la può dimenticare. E noi siamo più che sicuri, sì, Israele può fare tutto ciò che vuole, a bugiata della nazione, degli Stati Uniti d'America, in particolar modo con questo signor Trump, così, con la sua politica poco posso chiamarla politica, poco diplomatica, di darle la possibilità di annettare tutta la Palestina. Allora qui io solo in questi giorni, se mi permette, voglio rivolgermi all'Europa, sì. All'Europa che deve veramente ora, sì, che dare la possibilità e la giustizia, deve andare, dobbiamo toccare, insomma, ecco, dobbiamo, perché stiamo perdendo la nostra umanità. Dobbiamo rispettare giustamente anche il divieto, che dobbiamo anche, ecco, di starci in casa. E allora noi si cerca quest'anno di farlo in questo modo, tra i nostri figli, di vedere dei film, a farli vedere, insomma, anche dei più piccolini, a farli disegnare qualcosa che li ricorda della Palestina, augurandoci, insomma, ecco, di poter uscirne il prima possibile di questa pandemia, questa drammatica situazione, e di tornare in piazza con i nostri compagni e i nostri amici. Bene, allora ringrazio Abed per la tua partecipazione. Con questo ci salutiamo, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 18, come sempre. Inshallah. Inshallah, grazie mille, un abbraccio. Prima di concludere la trasmissione di oggi, dobbiamo darvi una notizia arrivata a redazione poche ore fa. Un'iniziativa mondiale per il giorno della Nakba. Si tratta del Nakba Day Rally di venerdì 15 maggio intorno alle ore 18:30-19 in Italia. Questo collegamento video ci consentirà di ascoltare palestinesi, artisti, performer ed esponenti del movimento di solidarietà alla Nakba. Per partecipare è necessario iscriversi. Troverete tutte le informazioni, gli orari e i link al meeting sul blog di Wombat nella pagina di Buongiorno Palestina numero 41. صفقة جو، صفقة جو، صفقة جو، جو، جو. لا صفقة جو.